elementare, Watson. La scienza risponde alle vostre domande. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Sai che io conoscevo un medico che praticava l'ipnosi e lui diceva che tac, battevi le mani e uno, boom, cadeva ipnotico. E io conoscevo un mago che facendo così addormentava il pubblico. Ma erano due diversi. Va bene, parliamo di ipnosi oggi con la domanda di Attilio, sentiamola. Ciao, vorrei sapere che ruolo occupa l'ipnosi nella metodologia clinica e quali parti del cervello siano maggiormente attivate o disattivate nello stato di trance. Siamo tutti ipnotizzabili? Ciao. Bella, questa domanda è bellissima. Ci sono dentro due o tre. Siamo tutti ipnotizzabili, questo è. Lo chiediamo all'esperto, a Felice Perussia. Intanto benvenuto. Salve a tutti. Ecco, lei è docente di psicologia generale dell'Università di Torino, grande studioso dei casi appunto di ipnosi e di quello che succede all'estero, soprattutto perché in Italia è una pratica poco utilizzata. Ecco, a lei il microfono. Allora, se la prima domanda è quella che è stata fatta ora, cioè se siamo tutti ipnotizzabili, diciamo brevemente che si ritiene che tutti sono ipnotizzabili perché tutti noi entriamo in trance costantemente, quando ci concentriamo su qualcosa, vediamo un film, perdiamo un attimo l'attenzione al mondo intorno e andiamo dietro le nostre fantasie. Ah, quindi definizione di trance vuol dire concentrati su una cosa sola? Trance vuol dire concentrazione con dissociazione, cioè distrazione. Quando uno si perde nei propri pensieri interiori, automaticamente è in trance. Se uno si mette a scrivere al computer una cosa a cui tiene, suona il telefono e non lo sente. Tende a non sentirlo, sì, certo. Tipica stato di blanda trance. E questo succede a tutti? Succede a tutti, tutti i giorni, più volte. Quindi questo è il motivo per cui tendenzialmente tutti sono ipnotizzabili, perché si tratta di riattivare uno stato naturale già presente nella persona, una risposta tipica, che si attiva in forma artificiale, cioè ad arte, da parte di un esperto. Okay. Quindi tutti possono esserlo, anche se c'è una gamma di risposte possibili. Ci sono alcuni soggetti che entrano in una trance davvero profonda, altri solo un po'. L'altro interrogativo era quali sono le parti del cervello che vengono attivate o disattivate? Qui la questione è complicatissima, perché siccome secondo alcuni autori, che pure si sono dedicati all'ipnosi in modo massiccio, l'ipnosi non è uno stato alterato di coscienza, ma è un normale stato di coscienza che semplicemente esaspera la concentrazione e la distrazione dagli stimoli esterni, in pratica si attivano gli stessi che si attivano in condizioni normali. La cosa interessante, per esempio, è che questo è stato verificato, tra l'altro in Italia abbiamo degli ottimi studiosi di, diciamo, neuroimaging connessa con l'ipnosi, che se io allucino alla persona, cioè una persona viene indotta in trance, poi gli viene detto che è presente, un classico di un test della scala Stanford, la presenza di una mosca che gli pizzica il naso, questo risponde muovendo la mano per togliersi la mosca, e se c'è in quel momento una verifica della sua risposta cerebrale, della corteccia cerebrale, si attivano delle aree simili a quelle che si attivano, analoghe diciamo a quelle che si attivano quando una mosca realmente c'è sul naso di questa persona. Però non è che si attivi un'area corticale diversa nella trance, semplicemente perché con ogni probabilità la trance è una normale condizione. Già, quello che ci aveva detto prima. Senta, però, quello che dicevo io all'inizio di questo medico che batteva un colpo di mano e riusciva a ipnotizzare, insomma, lui lavorava su della gente che aveva degli attacchi d'asma e glieli bloccava. Sì. Nel caso dell'asma la storia è complicata, perché l'asma è una risposta che ha degli aspetti fisiologici, anche difensivi per la persona, eccetera, per cui va insomma trattata con molta cautela. Diciamo che sull'asma, per dire, si agisce soprattutto nel ridurre l'ansia prodotta dal timore dell'attacco di asma, che non sull'asma stessa, che chiaramente è una risposta in larga parte biologica. Però quello che conta in questo episodio è che è possibile, un ipnotista può con una persona allenarla, in pratica insegnarglielo attraverso una induzione ipnotica, ad un segnale specifico che lo porta la persona stessa ad entrare in stato di trance. Per esempio, se uno ha timore di una certa condizione, tipico in università, lo studente che ha paura degli esami e non riesce più a dire niente nel momento in cui panico, si trova davanti all'esame, assoluto. Panico totale, gli si può insegnare, per esempio, stringere un pugno in modo classico, attraverso una induzione ipnotica, per cui stringendo il pugno gli si ripresenta alla mente quella condizione di rilassamento che è stata indotta in trance e che quindi lo aiuta a essere più tranquillo. Ecco, in parte ha già risposto, ma la conclusione della domanda di Attilio era proprio su in quali campi veniva utilizzato, in campo clinico veniva utilizzata l'ipnosi, quindi sicuramente in questi stati può avere delle valenze di agitazione e ansia. È amplissima la materia, sono due grandi aree, anche se ce ne sono di più, ma insomma tipicamente in area psicologica e in area medica. In area psicologica tutta la psicosomatica, le fobie e una serie di comportamenti che si accompagnano ad ansia. In un campo medico è stata verificata più o meno nella gran parte delle procedure mediche come ipnosi procedurale, cioè come un'ipnosi che accompagna, per esempio in chirurgia c'è una massiccia dimostrazione sperimentale molto ben fatta che non serve tanto per indurre l'anestesia, che pure è un effetto ipnotico certo, ma serve ad accompagnare l'operazione, per cui gli effetti collaterali, la quantità di farmaci anestetici richiesti successivamente all'operazione, la durata della permanenza in ospedale come convalescenza vengono drasticamente ridotti. Va bene. Questo vale per molte cose, la maternità, il parto, la gastroenterologia, l'elenco è lunghissimo. Va bene, grazie Perussia, buon lavoro. Grazie a voi. Buon lavoro. Mandateci le vostre domande alla mail elementare@radio24.it. E noi risponderemo, per esempio, è vero che l'aceto riduce la forfora nei frigoriferi? Elementare, Watson.